sempre con Rock Legends su Radio RCS, l'onda veronese. Le frequenze, come tradizione, le facciamo dire al nostro ospite, che questa sera è Emanuele Dei Lor. Allora, sono 98.6 per la bassa veronese e tutte le zone della Lessinia, 101.5 per Verona città e tutta la rimanente provincia e zona lago, 91.5 se non sbaglio. Certo, poi? Sono preparatissimo. Radio RCS la potete ascoltare anche in streaming dal sito www.radiorcs.it e se non lo fate vi veniamo a prendere a casa. Esatto. Dal rock inglese degli anni 80 passiamo agli anni 90 con lo shoegaze, che ebbe una luminosa quanto breve stagione agli inizi per poi sparire di colpo. Prima canzone era Waves degli Slow Dive, tratta dal disco di esordio Just for a Day del 1991. Sonorità romantiche stratificate per la band di Reading, forse oggi un po' dimenticate, ma che hanno influenzato la scena indie odierna. Che ne pensi? Verissimo. Stavamo proprio ascoltando la come venivano già, per secondo me anche in maniera abbastanza veneristica, dosati gli effetti e i tempi in quel tempo. Dicevamo anche questo fuori onda che tutti si gridava al miracolo per l'effettivo miracolo del fenomeno di Seattle, d'America e del grunge in quel periodo, ma in realtà tantissime delle band che sono uscite dal grunge in America si sono ispirate a band inglesi di quel periodo, come quelle che stiamo ascoltando, che già all'epoca avevano le idee molto chiare su quello che sarebbe stato il futuro della musica e le intenzioni. Rabbia è solo il titolo del vostro nuovo disco. Quale è il significato di questa semplice frase? È una dicotomia abbastanza netta fra il bene e il male. No, fra sì, anche bene e male. Cioè, in realtà è proprio la contrapposizione del sentimento positivo, quindi solare, al sentimento un po' più scuro e non necessariamente negativo, ma più scuro, quindi rabbioso. E tutto il disco verte un po' su questa tematica, anche come argomentazioni trattate all'interno dei testi dei brani e anche le sonorità usate, cioè proprio brani un po' più avvolgenti, più caldi, più solari, e brani più arrabbiati, più ritmici e violenti per spiegare tutto quello che è un'emozione, un sentimento misto. Tra i massimi esponenti dello shoegaze si segnalano i Ride, band di Oxford capitanata da Mark Gardner, dal disco Nowhere del 1990 con la canzone Vapor Trail. First you look so strong, then you fade away. Oh, band tra le più longeve della scena che oggi vede il chitarrista e cantante Andy Bell, confluito prima negli Oasis e poi nei BDI, a testimonianza che i fratelli Gallagher apprezzavano il lavoro svolto nei dischi con la sua precedente band. Che ne pensi? Qui mi tocchi sul vivo, perché gli Oasis sono nostri beniamini, insomma i miei beniamini dagli albori. Io penso di aver essermi avvicinato al Brit e alle sonorità inglesi proprio grazie a loro, e sicuramente gli Oasis, BDI adesso, anche se i fratelli hanno litigato e noi speriamo che un giorno prima o poi facciano pace, e hanno sempre anche loro avuto le idee molto chiare su che sonorità utilizzare, su che sound imprimere alla loro musica e sullo stile da trasferire i loro pezzi. Andy Bell lo conoscevano già molto bene prima di formarsi, e quindi hanno anche lì preso e puntato subito sul meglio. Si parlava prima della vostra evoluzione musicale e dei vari cambi di line-up che vi hanno portato fino ad adesso. Qual è il consiglio che dareste ad altre band per poter riuscire a superare le difficoltà negli anni, dato che si assiste sempre di più alla nascita e al disfacimento di numerose formazioni in poco tempo? Oddio, bella responsabilità. Il consiglio è solo ascoltare se stessi e le proprie emozioni e cercare di continuare ad avere sempre molta voglia e molta costanza, e farlo per amore, non fare musica perché un giorno diventerai il nuovo Michael Jackson, ma farlo perché a te in sala prove, suonando e imbracciando il tuo strumento, ti dà la sensazione più bella che nessun'altra cosa potrebbe darti. Parole sante. Chiudiamo allora la seconda parte con i Lush, la formazione di Mickey Bernie ed Emad Anderson, dal loro ultimo disco Love Life, orientato verso un sound power pop, con il brano Single Girl. Nella terza e quarta parte, spazio al nuovo disco dei Lord dal titolo Rabbia e Sole. It was me that knew.